E che vi aspettavate? Vorrei cambiare questo mondo, ma non saprei da dove partire. Esiterei il sorriso, conto così riderei alla fine. Io ho una storta che delude, questa porta non si chiude. Ho soccorso chi ha trascorso il rimorso in stappalude. Un'altra attrice che mi dice ti aiuto io da chi ti esclude. Poi ti lascia una cicatrice come una sciacquacciatrice. Anno dopo anno ogni inganno ci spinge, nella bocca della spinge o nel danno che ci stringe. E si riparte con le stesse carte, adesso l'arte ti mette di sparte. Vado di scala dalla prima, così se cado mi salva la rima. La gente cerca un punto fermo attraverso uno schermo, io lo cerco in un testo che possa darvi un senso. E che vi aspettavate? Vi aspettavate un po' di risate, parlate ma non ascoltate perché il senso voi lo odiate. Ma questo è il ritornello per farvi pensare senza che immaginate un coltello per pugnalare un fratello. E che vi aspettavate? Vi aspettavate aiuto senza ricambiare, vi aspettavate il benvenuto. Vi basta un secondo per poter cambiare tutto, in tasca avete un mondo, in mano un insulto. Ti voglio bene ma in catene, la gente parla come iene. Sta vita mai finita, viene sempre in salita. Il mio sistema mentale sistema il tema sociale, ma l'emblema è sempre quello, la teorema di essere più bello. Ci è rimasto poco di serio con un guasto in questo incendio. Siamo tutti sotto assedio dalla delusione e dal rimedio. Sono il peggiore sta dimensione, ma nella migliore direzione. Per ora espunto la mia passione, dove trovo punto di conclusione. La mia metrica mi medica, dentro me petto nevica. Una strofa segnaletica contro ogni vostra replica. Tutti vogliono il paradiso, tanti vogliono l'inferno. Altri vogliono un sorriso, pochi lo vivono in un quaderno. Sono il vaso dall'inferno, non vivo le cose a caso. Io le semino in un vaso e le scrivo per l'eterno. E che vi aspettavate un po' di risate, parlate ma non ascoltate perché il senso voi lo odiate. Ma questo è il ritornello per farvi pensare senza che immaginate un coltello per pugnalare un fratello. E che vi aspettavate aiuto senza ricambiare. Cambiare, aspettavate il benvenuto. Vi basta un secondo per poter cambiare tutto. In tasca avete un mondo, in mano un insulto. Certa gente mi snerva perché non sente la meta. Sono demente in riserva perché niente è completa. Questa gente si conserva piuttosto di impegnarsi. Questa gente ci osserva piuttosto di riguardarsi. Se ti ritiri o non bleffi, in sta vita non fai progressi. Siete invisibili pure ceffi, ma non è finita con voi fesci. Il conto a giri esplode, premo troppo il pedale. Mi vedrà il sorrisone se ti giri alla bagliante, mentre ti vedrò distante me ne resterò al volante. Affogato dalle risate, incazzato per le pugnalate. Se non trovi mai il traguardo è perché sai di essere codardo, o perché fai il bugiardo riguardo a ciò che stai ascoltando. Scappa brutta, schiappa e tappa quella bocca. Si pensa figa perché svappa in mezza niga, mentre sbocca forse hai sbagliato mappa, perché non trovi mai una tappa. Quindi segui questa massa con la paura che ti ingrassa. Se ci pensate degli scemi, voi restate pure fermi senza cercare punti fermi, perché siete tutti vermi. E che vi aspettavate un po' di risate, parlate ma non ascoltate perché il senso voi lo date. Volete ogni punto senza ascoltare, pensate di sapere ormai già tutto, però dovete parlare di brutto. E che vi aspettavate aiuto senza ricambiare, vi aspettavate il benvenuto. Mi basta un secondo per poter cambiare tutto. In tasca avete un mondo, in mano un insulto.